A 20 anni sei partita senza più tornare, ci hai lasciato all'improvviso senza parlare. Che purtroppo queste cose non passiamo vicino, il tempo scorre troppo forte per poterlo fermare. Ma mi piace ricordarti per sempre, perché sempre resterai.